brucia, brucia come hanno fuoco. 40 gradi compa, noi è filo un ucieco. E la notte non piglio rigetto tra l'uli e tu. Madonna c'è caldo, sraca in terra mi metto. Brucia sto sole, brucia, brucia come hanno fuoco. 40 gradi compa, noi è filo un ucieco. E la notte non piglio rigetto tra l'uli e tu. Madonna c'è caldo, sraca in terra mi metto. A faccia a mare non si può proprio stare. Sopra l'arena la squazzata ti puoi pure square. Tra l'acqua ti vieni con ti trifieschi. C'è puzza di petrolio e di pesci canfitesci. Si vede in apparenza che viene l'otra vai. C'è qui di liba e buona saca torno uno crae. Me non lo penso di la notte alla mattina. Eppure io lo meno sopra una bella signorina. Siamo all'usoli, mo' il picciolo stito d'erroni. Quando siamo a fotti rimi luni, quindi ti frescamo. Ma c'è sonto vagabondi sti bagnoni. Pronto lo patrono e si cunni gonfia con li pallettoni. Tanto freschi li impiegate noi, sotto soli come li montoni. Uscirò con ne confiati a tutti gli buglioni. Ca quando ti fermi con ti freschi pronti li patroni. Qui estemo no dintra lo fresco di li macchinoni. Brucia sti un sole, brucia brucia come hanno fuoco. 40 gradi compa, non gli è filo non gioco. E la notte non piglio rigetto tra lui e tu. Madonna c'è caldo, sraca in terra mi metto. Brucia sto sole, brucia, brucia come hanno fuoco. 40 gradi compa, non gli è filo non gioco. E la notte non piglio rigetto tra lui e tu. Madonna c'è caldo, sraca in terra mi metto. La sera finimo birra, la fai niente più. Lui amaro già rima, la facimo giallo blu. Si cade dati in costi proprio alla puntana. O sopra la ringhiera per tutta la settimana. Ma più beve più caudo si senti. Un ritardo spazio un cibo pillamenti. L'usutore che scende sopra sto sound tu. Sento i cristiani che grido nel culo. Brucio, mo' sta brucio, lo sudore mi sta sluciando. Terra cacio e pila di purezza, niente più sta peggio. Ma c'è pregio, lo soli qua ne stone e poi mi sento puro peggio. Acqua bascio, ieno inferno e piano piano sta spuleggio. Dopo garria la notte, non lo caudo, non si rende. Mi fa gigliasti mare a tutti i bande, e tu bueno si difende. Ti mena una vampata, don castaigo si distende. Vi saluto, il cervietto mi sta forte. Brucia sti un sole, brucia, brucia come hanno fuoco. 40 gradi compa, noi è filo non gioco. E la notte non piglio rigetto tra lui e tu. Madonna c'è caldo, sraca in terra mi metto. Brucia sto sole, brucia, brucia come hanno fuoco. 40 gradi compa, noi è filo non gioco. E la notte non piglio rigetto tra lui e tu. Madonna c'è caldo, sraca in terra mi metto.